diretta su CRM Happy Radio Deja Vu con Mary Catalano. CRM Happy Radio. Esattamente, Deja Vu su CRM Happy Radio. Buongiorno a tutti, questa là che vi parla è la voce di Mary Catalano e naturalmente c'è anche la voce di Peppe. Buongiorno. Buongiorno a te Peppe, tutto ok? Tutto bene, tu Mary? Io no, perché anche oggi è cambiato. C'è molta ventilazione oggi, anche oggi la temperatura si è di nuovo abbassata e niente, ecco, sbattono le porte, c'è vento. Sta ritornando il maltempo e questo non mi piace, però che dobbiamo fare? Pazienza. E ci, come dire, evitiamo di guastarci la giornata ascoltando anche la musica, comunque, che ci aiuta in questo senso. Anche oggi insieme siamo a mezzogiorno e naturalmente anche oggi chiediamo il vostro aiuto, interagite con noi. Please. Allora, potete interagire guardando e sentendoci sul sito di www.crmpiradio.it in streaming, oppure potete anche inviarci un sms al 335-5637-251 oppure telefonare allo 0921-923292. Poi se non siete ancora fan di Facebook di noi, andate sulla pagina appunto di Facebook CRM Happy Radio e cliccate sul bottone mi piace. Perfetto, e in questo modo staremo in contatto perennemente, se volete, ascoltando anche la musica che più ci piace, che naturalmente va avanti all'interno di questo appuntamento appena cominciato e va avanti con Vasco Rossi, che sentiamo con L'uomo più semplice. Ancora buongiorno e bentrovati su CRM Happy Radio all'interno di Deja Vu, lo dico ancora una volta con Mary e Peppe. Che c'è, sono l'uomo giusto per te. Sono l'uomo di questa sera, sono l'uomo di primavera. Facciamo bene a stare insieme stasera, facciamo bene perché è sabato sera, facciamo bene, facciamo perché c'è l'occasione e l'atmosfera. Sì, facciamo bene perché siamo vivi, domani chi lo sa. Sono un uomo vero, sono un uomo solo. Sono l'uomo di questa sera, sono l'uomo di primavera. Facciamo bene a stare insieme stasera, facciamo bene perché è sabato sera, facciamo bene, facciamo perché è l'occasione e c'è l'atmosfera. Sì, facciamo bene perché siamo vivi, vivi, vivi. Domani chi lo sa. Sono un uomo, sono l'uomo più semplice che c'è. Sì, vabbè. Sono l'uomo giusto per te. L'uomo più semplice, Vasco Rossi, mica tanto. Mica tanto semplice. Un grande Vasco Rossi, altro che uomo semplice. Intanto lo abbiamo sentito col suo singolo che ormai è diventato un tormentone proprio in questo periodo qua, da alcuni mesi veramente. E c'è qualcosa che riguarda proprio Vasco Rossi? Sì, Vasco Rossi è pronto per Torino, ci saranno 2 ore di concerto e il rocker sta provando con la band, in scaletta ci saranno 22 canzoni. Infatti vediamo che Vasco Rossi, dopo l'interruzione del suo live con tour del 2011, è pronto a tornare a cantare per domenica prossima a Torino. È già tutto rodato per accogliere i fan. Sono oltre 2 ore di concerto senza tregua, con 22 canzoni e un medley di brani storici. Un'overdose di Vasco Rossi. Un'overdose completa. Nel capoluogo piemontese il rocker si ferma per 4 date, quindi avremo domenica 9, poi lunedì 10, poi il 14 e il 15 giugno, prima di concludere a Bologna con altre 3 date. Il palco sarà un imponente rock stage da 740 metri quadrati con 3 triangoli, che è il simbolo del Blasco, un fronte da 70 metri e una passerella da 13. Ad aprire la scaletta sarà uno dei più grandi successi dell'ultimo album, l'ironica L'uomo più semplice, che abbiamo appena ascoltato. Infatti. che è il singolo pubblicato alcuni mesi fa per sdrammatizzare il clima pesante che il rocker sentiva intorno a sé e nel paese, e subito poi balzato in testa alle classifiche. Ma poi sarà tutto un susseguirsi di nuovi brani e canzoni come Le Intramontabili Stupendo, Gli Spari Sopra, Delusa e Chi c'è chi dice no. E Mi si escludeva. A parte queste nuove entrate, la scaletta del Livecom 013 resta la stessa del tour del 2011, come la band di Otto Elementi che da sempre accompagna il Blasco. E insomma, chi ha la fortuna di andare a vedere il concerto si godrà davvero un bello spettacolo. Infatti. Andiamo avanti con la musica italiana, che ne dici? Sì, abbiamo questa volta? Sì. Abbiamo ora Neffa con Quando Sorridi. Che carina questa canzone. E sorridiamo. Sorridiamo, dai. Ognuno ha un peso da portare con sé. Non dirmi che tu non lo sai. Ma più ci pensi e più succede che poi finisce che non ce la fai. Sospesi in volo su una grande giostra al suono della musica. Giriamo io e te, giriamo io e te. La stessa vita così amara qualche istante fa. Se solo tu vuoi poi diventa più dolce che mai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile se alla fine è già complicata così com'è. Ognuno ha un po' di amore dentro di sé. Non dirmi che tu non ce l'hai. Ma più ne chiedi e più non serve, perché dipende da quanto ne dai. E puoi lasciarti andare fino in fondo alla tua solitudine. Se è quello che vuoi, c'è quello che vuoi, ma finché al mondo c'è qualcuno che ci tiene a te, ricorda se puoi, quello è il bene più grande che hai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile se alla fine è già complicata così com'è. Sai, è una di quelle canzoni che tu l'ascolti la prima volta e già ti piacciono. Sì. Questa di Neffa, Quando Sorridi, qui a CRM Piredio all'interno di Deja Vu. Ancora buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Buondì. Dovunque siate, in qualsiasi modo ci ascoltiate, noi siamo con voi, Peppe Carrozza e Mary Catalano, e anche in streaming se volete al www.crmpiredio.it. E se non sapete come fare amicizia, oltre che andare su Facebook, social network, eccetera eccetera, tutte queste cose qua, c'è anche un altro modo molto curioso e particolare per attaccare il bottone per fare amicizia. Sì. Ed è stato inventato proprio dalla Coca-Cola. Gli è venuta proprio un'idea geniale. Ma possiamo parlare della Coca-Cola senza fare pubblicità occulta? Sì, sì, sì, certo. Okay. La Coca-Cola ce l'abbiamo nelle vene. Già quando nasciamo la mamma ci dà quella al posto del latte, quindi Direttamente. Ok. Insomma, dicevamo che appunto se un modo simpatico per poter attaccare il bottone, comunque fare amicizia con qualcuno, potrebbe essere proprio quello di cercare di aprire una bottiglia di Coca-Cola, perché appunto il tappo è talmente stretto che poi ha bisogno sempre dell'intervento di qualcuno, dell'aiuto, puoi chiedere aiuto insomma a qualcuno, e questo potrebbe essere proprio un modo per attaccare, per fare amicizia insomma con qualcuno. Quindi gli ideatori della Coca-Cola hanno ideato anche questo curioso e simpatico scherzo, nasce come uno scherzo comunque ai visitatori di un parco di Shanghai in Cina, e ha riempito un distributore automatico di bottiglie con il tappo stretto con una forza ben superiore al normale. Ti immagini? E con questo semplice accorgimento l'idea è quella di favorire la nascita di nuove amicizie, e gli ignari acquirenti delle bottiglie, e in particolar modo le donne, ecco, si trovano in difficoltà ad aprire la bottiglia e sono costrette a chiedere l'aiuto di un passante, o magari un passante premuroso si offre spontaneamente senza che gli venga questo. L'uomo, no? Infatti, in questo modo si costringe la persona proprio a fare conoscenza. È davvero fantastico! E magari da lì poi potrà nascere qualche altra cosa, magari. Sì, no? Certo, tra l'altro adesso noi copiamo questa idea e la applichiamo su tutte le bottiglie, anche quelle che non sono della Coca-Cola, anche la semplice bottiglietta d'acqua. Facciamo proprio, cerchiamo di stringerla il più possibile, poi quando ci piace qualcuno la docchiamo. O la bottiglia? E è subito la strategia in atto. Ma ti potrebbe servire, sì, sì, ci potrebbe, sì, servire. Sì, sì. Allora, siamo pronti per dare spazio alla prossima canzone? E arriva questo singolo che mi piace tanto, soprattutto mi piace lui, Armin van Buuren, il mio DJ preferito, che sentiamo stamattina con This Is What It Feel Like. Nobody here knocking at my door. The sound of silence, I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Such a beautiful sound. Without about you now. This is what it feels like. Déjà vu su CRM Happy Radio. Se non sai di che morte morire, scegli me, scegli me. E chissà dove andiamo a finire, scegli me, scegli me. Io lo so che te ne vai, non si vince senza perderci. Forse capirai che cos'è il dolore e quanto male fai con l'amore. Esci con me, esci con me, vedi com'è bello. Esci con me, esci con me, ti sconvolgerò. Se non sai com'è bello impazzire, scegli me, scegli me. Se lo sai e non riesci a dormire, scegli me, scegli me. Il mio bacio è come se non sai di che morte morire, scegli me, scegli me. Carina questa nuova canzone per Gianna Nannini, che si chiama proprio Scegli Me, all'interno di Déjà Vu. E parliamo di una cosa importantissima. Allora, abbiamo, per quanto riguarda il riciclo della plastica, a cui sappiamo che Mary è tanto affezionata. Oh, questo sì, sì, sì, assolutamente mi preme questa cosa, facciamo la differenziata, vi raccomando. Anche perché fra poco parlerò anche di una cosa che riguarda la differenziata. Già da qualche parte c'è un codice a barre sui sacchetti della spazzatura, della differenziata. In qualche modo ci aiuta, però ci, diciamo, ci spia, fra virgolette, eh sì, in qualche modo, sì. Tutti gli spostamenti, da quando sei a casa e prendi il sacchetto per andarlo a buttare nella spatumiera, fino a quando sei là, insomma. Poi vi spiego bene, intanto parliamo di questa cosa del riciclaggio. Del riciclaggio della plastica. Infatti viene scritto che è stato positivo il bilancio di Corepla su raccolta e trasformazione dei rifiuti. Nel 2012 sono stati risparmiati 7.000 gigawatt orari di energia grazie al riciclo degli imballaggi in plastica provenienti dalle raccolte differenziate. Il riciclo e recupero ha consentito di evitare l'immissione in discarica di 22 milioni di metri cubi di rifiuti. Il settore ammortizza bene gli effetti della crisi in base al bilancio dell'attività del 2012 di Corepla, il consorzio nazionale senza scopo di lucro per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Quindi più differenziata, è aumentata la raccolta differenziata, quindi nonostante siano diminuiti gli imballaggi immessi al consumo. Nel 2012 sono state raccolte circa 700.000 tonnellate di imballaggi in plastica, 5% in più rispetto al 2012, che è pari a 11,6 kg pro capite. Ciò che anche grazie all'estensione della raccolta dall'11 maggio 2012 a piatti e bicchieri monouso. Abbiamo anche più riciclo e quindi è anche cresciuto anche il riciclo, ma con un rallentamento rispetto al 2012, più di 395.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata sono state riciclate. Migliora l'efficienza complessiva di riciclo e recupero, solo il 2% del materiale raccolto, costituito da frazioni estranee, non riciclabili e non recuperabili, è stato avviato a discarica a circa il 4% del 2011. Alcuni vantaggi economici anche in periodo di crisi: il riciclo produce valore, sono circa 100 milioni di euro i ricavi derivanti dalla vendita delle imprese di riciclo dei rifiuti selezionati a valle della raccolta differenziata. Smaltire rifiuti è un costo evitabile grazie al riciclo e al recupero. Infatti nel 2012 più di 36 milioni di euro di costi di smaltimento sono stati evitati alla collettività. E quindi facciamo questa benedetta raccolta differenziata e insomma ricicliamo bottiglie, vetro, plastica, carta, cartone, tutto quello che si può riciclare, mi raccomando. Intanto noi andiamo avanti con il nostro appuntamento, c'è la musica di Nilla Zilli. Nina Zilli, sì. Nilla, con tutte queste L mi sono confusa. 50.000 lacrime non basteranno perché musica triste sei tu dentro di me. 50.000 pagine gettate al vento. Parlavamo poc'anzi di riciclaggio e di differenziata e per riallacciarmi al discorso di cui parlava Peppe Carrozza proprio poc'anzi, parliamo ancora di differenziata e in particolar modo nel napoletano c'è già all'attivo qualcosa di interessante e forse anche controindicativo in qualche maniera per noi. A Torre del Greco, proprio nel napoletano, nessuno può sgarrare perché c'è un codice a barre nel sacchetto, quindi il sacchetto è dotato di chip, è un codice a barre, un sacchetto dell'immondizia, sembra un po' strano, però è così, che spia passo passo il percorso da casa scusate, al centro di smaltimento. Questo accade, come dicevamo, a Torre del Greco, nel napoletano, e sono stati distribuiti i nuovi kit per la differenziata con 4 tipi di buste di diverso colore con codice a barre per essere immediatamente identificate attraverso questo speciale chip. Primo step sarebbe quello di aiutare i cittadini. Al momento, come fa sapere l'assessore all'ambiente del comune vesuviano, che si chiama Francesco Balestrieri, l'intento è incentivare la pratica della raccolta differenziata, e questo mi sta bene. Procederemo a una serie di controlli al fine iniziale di correggere eventuali errori nelle procedure di differenziazione. Queste sono state le altre parole, appunto, dell'assessore all'ambiente del comune vesuviano. Certo, se dovessero emergere gravi irregolarità, saremo pronti anche a passare ad azioni più incisive, ha continuato. E poi c'era una casalinga in fila per ritirare il kit, che ha detto che l'idea di controllare l'effettivo svolgimento della raccolta gli è sembrata una buona idea. E questa conferma, questa affermazione di questa casalinga, diciamo che ha incoraggiato l'assessore in qualche modo. Sì, certo. Sì. E però non so se tutti sono d'accordo con la casalinga in questione. Ci sono i pro e i contro in sempre. Questa cosa. Però forse è la maniera migliore per cercare di non sbagliare e seguire le regole per come si deve, per far sì di fare una differenziata nel modo più corretto possibile, senza sbagliare, che ne so, orari di quando si va a buttare la spazzatura, insomma, seguire le regole che ci sono. Intanto andiamo avanti col nostro appuntamento e andiamo a sentire un'altra bella cosetta che è stata segnalata. Un bel tuffo nel passato, segnalata da Vincenzo Luigi, che salutiamo. Mary, la canzone di prima è stata richiesta da Marco da dedicare a Ivano. Ah, quindi salutiamo anche Marco, sì. E Ivano. Ragazzi, ancora una buona giornata anche a voi. Johnny Bigo. Déjà vu su CRM Happy Radio. Déjà vu. always got my baby. And now you ain't around, baby, I can't think. I should've put it down, should've got that ring. Cause I can still feel it in the air. See a pretty face, run my fingers through her hair. My love, my life, my shawty, my wife. She left me, I'm tight. Cause I knew that it just ain't right. I was thinking about her. At every turn, trying to get my usher on, but I can't let it burn. And I just hope she know that she the only one I yearn for. More and more I miss her, what will I learn? Didn't give her all my love, I guess now I got my payback. Now I'm in the club thinking all about my payback. Hey, she was so easy to love, but wait, I guess that love wasn't enough. I'm going through it every time that I'm alone. And now I'm wishing she'd pick up the phone. But she made a decision that she wanted to move on. Cause I was wrong. And I was thinking about her. Just a Dream, Nelly a CRM Happy Radio, lo dico sempre, sempre all'interno di Deja Vu, insieme a Mary Catalano e Peppe Carrozza. Siamo qua insieme a voi fino a mezzogiorno, sì, assolutamente. Non ci vogliamo perdere neanche un minuto, un secondo di questo appuntamento con la musica più bella di oggi del passato e con le curiosità che man mano andiamo dando. E nella vita, si sa, Peppe, è tutta una questione di par condicio. Sì, e se la donna è a mela oppure a pera o a clessidra o a grissino, il maschio non può essere da meno, giusto? Ci avete mai pensato? Io credo che anche in questo vorrete avere la vostra parte. Sì, in dai. Effetti, anche lui, anche voi uomini, avete le vostre forme. E tutto in tutto sono sette, pensate. Addirittura. Sì, sette forme diverse, accostate in modo fantasioso e anche un po' irriverente a vegetali diversi come ad esempio pomodoro, cetriolo, fagiolino e addirittura sì. Oggetti di vario tipo, ad esempio dal pupazzo di neve al mattone, insomma. Tutto questo serve a descrivere la propria conformazione o impietosamente i punti del corpo in cui tendono a depositarsi le rotondità di voi uomini. Quindi non parliamo più di donna mela, donna pera, questo è quello, parliamo adesso di uomini cetriolo, uomini pomodoro, uomini fagiolino. La panoramica delle sette conformazioni maschili non è una cosa inventata da noi, è un frutto di uno studio, è frutto di uno studio realizzato da esperti di body image, e quindi non è una cosa che vi dico io, ma è così. E ci sono appunto gli uomini di queste sette forme a partire dalla pera, forma di pera. Allora, quella forma di pera in realtà è quella più comune, nella quale ammette di identificarsi il 49% dei soggetti che sono stati presi in esame dall'indagine. Con il fisico, in pratica, in che cosa consiste? È un fisico leggermente allargato nella parte centrale del corpo. Uh-huh. Poi abbiamo quello a cetriolo. Il cetriolo È snello sopra e sotto, senza chili di troppo, ed è la forma a cui aspira la maggior parte del campione, il 46%, ma c'è un sfortunatamente però. Appartiene solo al 15%, tra i quali anche il calciatore David Beckham, direi sex symbol per eccellenza. Poi abbiamo quello a fagiolino, che è alto, magro e flessuoso, come il ciclista Bradley Wiggins. E qua non stiamo messi male. Mi sa che nemmeno qui. Poi abbiamo quello definito il mattone, cioè che è solido e massiccio in tutto il corpo, come il 9% degli uomini del campione, e come la pop star Robbie Williams. Mm-hmm. Poi abbiamo bello tozzo. Tozzo, bello. Ah. Poi abbiamo il nacio. No, il macio. No, nacio. N di Napoli, ecco. No, M di Milano, Napoli. Non fraintendiamo. È tipicamente spagnolo. Che è a triangolo come gli spicchi di farina di mais ricavati dalla divisione delle tortillas, appunto. L'uomo nacio ha le spalle larghe, il torace ampio e asciutto, e i fianchi stretti. E il fisico dei nuotatori professionisti è di solito è molto popolare presso le donne, chissà perché. Stranamente però solo il 5% degli uomini aspira a questa struttura fisica. Non si vuole faticare per avere questa struttura, questo è il problema. Poi abbiamo quello a pomodoro, che è paffutello e rotondo un po' dappertutto, come l'ortaggio rosso. La dice tutta la parola. E poi per ultimo abbiamo il pupazzo di neve. Anche questo spiega tutto. Quindi, rotondo soprattutto sull'addome, con una forma vagamente a otto. C'è sempre questo studio che sottolinea anche che, esattamente come accade a noi donne, anche l'uomo medio soffre, ovviamente confrontando la propria immagine con i modelli maschili proposti dai media. In ogni caso, a prescindere dalla propria conformazione fisica, il momento della vita in cui il maschio si sente più fiducioso con se stesso e nella propria avvenenza fisica, ovviamente, si colloca a 28 anni di età. Quindi un ragazzo di 28 anni si sente proprio a suo agio nel suo fisico e nella sua fisicità, in qualche maniera. Sì. A quest'età, infatti, il 40% degli uomini almeno è soddisfatto del proprio fisico, e circa uno su tre si dice che è appunto è convinto di poter indossare tutto quello che desidera, mentre il 41% circa dichiara di avere il peso ideale in rapporto alla propria statura. E alle soglie dei 30 anni le insicurezze adolescenziali sono superate, naturalmente. Di solito si ha un rapporto stabile con una donna e si ha un buon rapporto con il proprio corpo, il metabolismo è ancora molto attivo e non si mette su peso, e quindi ancora Beh, ci si salva. Dai, io ne ho appena compiuti 30, in effetti stai benissimo, così, dai, non così, ti puoi lamentare. Non mi lamento più tanto, infatti avete capito, quindi datevi un'occhiata allo specchio, fate un po' e vedete un po' se siete a pera, a pomodoro, a mattone, a cetriolo. Datevi una giustificazione anche, che ne so. Intanto un'altra bella canzone di questo periodo, la sentiamo subito qui su CRM Happy Radio. Abbiamo già trascorso un'ora insieme, che bello. Breaks my heart cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. And you will never know. What I feel, what I need from you, no. And you will never know, I will never show. What I feel, what I need from you. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Mm.

Eccoci ritornati su CRM Happy Radio. Abbiamo una nuova notizia, curiosa e strana soprattutto. Ah sì? Che viene dalla capitale, da Roma. Sentiamola. Ed è un marito geloso che ha fatto scattare un allarme bomba. Oh, oh, oh, addirittura, mamma mia, che guaio. Quando i mariti sono gelosi fino a questo punto c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Già. In pratica che cosa è successo? Questo marito geloso ha messo un rilevatore GPS sotto l'auto di quello che credeva l'amante della moglie, parcheggiata in un centro commerciale. Ed era veramente l'amante quello? Vedremo un po'. Racconta. Però questo viene notato dalla vigilanza. In pratica che cosa è successo? Questo di qua era convinto che la moglie lo tradisse e ha pedinato l'auto di quello che credeva fosse l'amante della donna. Poi, quando si è fermata nel parcheggio di un ipermercato di Roma, ha applicato un rilevatore GPS sotto la vettura. Ingegnoso. Ma non solo ha sbagliato veicolo, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e ha fatto scattare l'allarme bomba con tanto di intervento dei carabinieri e degli artificieri. Che guaio. Quindi questo è successo all'interno di questo parcheggio del centro commerciale Roma Est. Dalle telecamere di sorveglianza sul posto, la vigilanza si era accorta di due uomini che prima di dileguarsi avevano armeggiato sotto un'auto applicando un dispositivo con delle batterie nella parte posteriore della macchina. Così sono subito stati allertati i carabinieri e gli artificieri nel timore che i due avessero piazzato una bomba. Sì. Ma ben presto poi l'allarme è rientrato. Perché grazie al segnale di una SIM card di un telefono cellulare, i militari della compagnia di Tivoli sono risaluiti alle due persone riprese nei video, che sono due italiani, uno dei quali un cinquantenne che era appunto convinto che la moglie lo tradisse. L'intervento dei carabinieri è stato utile anche perché i due uomini avevano piazzato il GPS sotto una Smart parcheggiata a fianco di quella che avevano pedinato. Se non si fossero accorti dell'errore, avrebbero coinvolto altre persone ignare nei loro sospetti della vicenda. Insomma, potrebbe essere la trama di un film. Sì. Che non annoierebbe assolutamente. Assolutamente. Mamma mia, cosa succede? Penso un po' con tutti questi navigatori, GPS, questo e quello, sei veramente rintracciabile. Sì, io ad esempio quando vado a correre metto su il Garmin e il GPS, se tu vuoi sai benissimo dove mi trovo, basta andare su Google. Ottimo. Ti immagini? No vabbè, non lo so, fino a questo punto comunque siamo tutti rintracciabili, veramente ormai siamo, non possiamo più nasconderci. Sotto osservazione. Ma ce la siamo cercata anche noi, anche con questi cellulari. Però, con tutti questi aggeggi che abbiamo, dovremmo liberarci di tutte queste cose per ritornare, tra virgolette, liberi. Ok, intanto andiamo avanti con il nostro appuntamento. C'è la musica, sempre super protagonista all'interno di Déjà Vu. E sono già le 11:20. Salutiamo tutti i nottambuli che ci ascoltano la sera, eh sì, in replica. Alle 10 poi. bacio a te amore mio, un bacio a ciò che verrà, per poter dire addio a tutto ciò che non va. Un bacio al mondo che ho amato, visto da molto vicino, se mi parli arrossisco come farebbe un bambino. Un bacio in fronte a mia madre, perché a lei devo tutto, perso in tutte le strade per la vita che ho fatto. Un bacio a te amico mio, che mi sei stato accanto quando nessuno chiamava e non bastava il talento. Se non mi guardi tu, chi mi guarderà? Se non mi cerchi tu, chi mi cercherà? Se non ti mancherò, chi ti mancherà? In questo spazio di cielo diviso a metà. Se non mi guardi tu, chi mi guarderà? Se non mi cerchi tu, chi mi cercherà? Se non ti mancherò, chi ti mancherà? In questo spazio di cielo diviso a metà. Un bacio a te sulla bocca, dopo tutti gli sguardi, dopo i fogli bruciati, con scritto hai smesso di amarmi. Un bacio a questo passato, che alla fine è passato, se chiudo gli occhi rivedo tutto quello che è stato. Un bacio forte a mio padre, troppo lontano da me, quante cose non dette e chissà poi perché. Un bacio in segno di pace, al futuro che arriva, da lontano veloce, sperando che ci sorrida. Se non mi guardi tu, chi mi guarderà? Se non mi cerchi tu, chi mi cercherà? Se non ti mancherò, chi ti mancherà? In questo spazio di cielo diviso a metà. Se non mi guardi tu, chi mi guarderà? Se non mi cerchi tu, chi mi cercherà? Se non ti mancherò, chi ti mancherà? In questo spazio di cielo diviso a metà. Un bacio a te che sei tanto, ma tanto lontano, che non ti vedo da anni e ormai non ci riconosciamo. Un bacio ai giorni sprecati, per tutti a darsi un addio. L'ho dovuto provare arrivando a dire questo non sono io. Questo non sono io, questo non sono io, questo non sono io. Se non mi guardi tu, chi mi guarderà? Se non mi cerchi tu, chi mi cercherà? Se non ti mancherò, chi ti mancherà? In questo spazio di cielo diviso a metà. Se non mi guardi tu, chi mi guarderà? Se non mi cerchi tu, chi mi cercherà? Se non ti mancherò, chi ti mancherà? In questo spazio di cielo diviso a metà. Se non mi guardi tu, se non mi cerchi tu, la la la. Ma che testi geniali. Comunque Nesli si è imposto con la sua musica, con la sua con i suoi testi anche, per cui non facciamo molto sarcasmo. Dai, vabbè. Intanto parliamo di una cosa che invece preme a moltissimi uomini. Sì, dai. Diciamo molti così. Uomini non vorrebbero essere chiamati in questo modo. Soprattutto vengono chiamati quegli uomini che di solito dirigono delle gare sportive. Come vengono chiamati? Cornuti. Ecco. Ecco. E in questo caso è una parola che naturalmente molti non digeriscono, è ovvio per quale motivo. Ci sarà un motivo ovviamente. Ma perché si dice così? Perché si dice avere le corna? Perché? Ebbene, l'espressione avere le corna, o più semplicemente l'espressione appunto cornuto, ecco, accompagnata ovviamente col classico gesto delle corna, oltre ad essere una delle offese più comuni, è spesso utilizzata per indicare qualcuno che è stato tradito. L'origine di questo modo di dire trova le proprie origini nella mitologia. Si narra infatti che nell'isola di Creta la regina Pasifae, forse si dice così, vabbè, sì, moglie del re Minosse, fosse molto restia ad avere rapporti sessuali. E fu così punita da Afrodite, dea dell'amore, che la rese totalmente dipendente dal sesso, praticamente era una ninfomane. Ecco. Dopo essere stata allontanata dal marito Minosse, preoccupato di perdere la corona, in una zona sperduta di Creta, pur di soddisfare poi il suo bisogno, si invaghì di un toro,

funny, you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me out the way I want you to stay. Bentornati qui su CRM Happy Radio, sono Peppe Carrozza, ancora gli ultimi 15 minuti di trasmissione con Deja Vu e con Mary Catalano. Abbiamo una notizia di meteo, forse abbiamo l'estate che arriva, abbiamo le ultime ore, diciamo la primavera e l'inverno e il freddo soprattutto hanno le ultime ore. E diciamo che ci siamo stufati, Oggi, sì. Oggi è fresco. Oggi mi fresco. Sono dovuta rimettere la felpina. Eh sì. Vabbè, eh non sì. Esageriamo, la felpina. Una maglietta, insomma, con le maniche lunghe. Con le maniche lunghe, un bel cappuccino per. Caso mai piovesse. Non caso in mai. Cui. Non sembra che deve piovere, o sì? Non sembra, perché vediamo che l'instabilità è in attuazione in gran parte del paese, grazie a una progressiva rimonta dell'alta pressione che ci regalerà un primo assaggio d'estate. Ale. E vai. Quindi tutti al mare questo. Tutti al mare questo. Che bello. A sentire tanto caldo, perché in realtà vediamo che i venti resteranno deboli a regime di brezza, salvo dei rinforzi da est intorno a Sicilia e Canale di Sardegna. Avremo oggi pomeriggio ancora qualche fresco che ci ha caratterizzato in questi ultimi giorni, ma vediamo che da venerdì, quindi da domani fino a domenica, vi è un promontorio anticiclonico nordafricano che porterà tanto sole e un primo caldo estivo con 27 gradi al nord e ben 32 a sud e sulle isole. Allora, ci possiamo fare anche il bagno questo fine settimana. Infatti sì, ecco il vento che abbiamo chiamato si è fatto sentire. Infatti. Quindi da venerdì, eccetto qualche breve acquazzone pomeridiano attorno ai rilievi alpini all'Appennino centrale, la temperatura, la temporanea intrusione di un promontorio anticiclonico dal Nord Africa determinerà una situazione dal sapore estivo che porterà le temperature localmente oltre i 30 gradi. Quindi potremmo andare benissimo veramente a mare e dare inizio magari a questa nuova estate del 2013. Ecco, finalmente. E nel frattempo, nell'attesa, noi continuiamo a sentire la musica. Sì, tra l'altro abbiamo ancora poco tempo sì, a nostra disposizione. Pochissimo proprio, pochissimo. Abbiamo Emily Sand con Daddy. You got your family back and you got your smile. And you promised your sister that you never go back again. But friends keep telling you what he did last night. Girls he kissed, how many he liked. And you try to remember that there's no way you could ever be friends. But now you're looking like you really like him. But now you're feeling like you miss him. You're speaking like you really love him. And now you're dancing like you need him.

la nuova canzoncina di Malika Yane, Cosa hai messo nel caffè, la canzone che ci propone, che abbiamo appena ascoltato. Siamo agli sgoccioli, come dicevamo prima, e fra qualche istante ci sarà l'appuntamento con Filippo Glorioso e con Carta e Penna. E quindi abbiamo il tempo di sentire ancora una canzone, però. Sì, Mary, permettimi. Dimmi. Probabilmente siamo all'ultimo giorno di stage con me, non lo so, però io il di dietro me lo voglio parare. In che bene. Senso? Che vuoi dire? Allora, la canzone che ora andremo ad ascoltare, ufficialmente io la vorrei dedicare a chi? A tutta la redazione della radio, quindi a te per essermi stato accanto tutto questo periodo. Che sorpresa! E a tutti coloro che mi hanno e hanno anche accolto me e gli altri ragazzi del corso, quindi Angelo Arduino, Filippo Glorioso che già è arrivato, Filippo e Simone Brancato, Geri, Patrizia. È un particolare saluto, però lo vorrei fare anche a un mio amico. Sì. Che è Ivano. Ivano. E speriamo che tanta fortuna gli arrivi. Allora, condividiamo questo tuo pensiero e salutiamo Ivano. E veramente speriamo che anche tu possa cantare questa canzone di Jovanotti. Sono un ragazzo fortunato. Dai, che sentiamo. E sono fortunato ad aver fatto questo grazie, stage con voi. Grazie, davvero carino. Grazie, una sorpresa questa qua. Sentiamoci la canzone. Sembra l'ultimo, un altro è da impazzire, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità io vento col sorriso. Fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato. Ok ragazzi, siamo proprio in chiusura di questo appuntamento di oggi, l'ultimo forse insieme a Peppe. Vedremo. Forse però vedremo. Potrebbe esserci qualche sorpresina la prossima settimana. Mi sono voluto un po' riparare un po'. Va bene, comunque sia, è sempre stato un grande piacere averti qui in studio. Piacere in questo mio. Ultimo periodo, per cui è andata bene e posso dire anch'io sono fortunata in questo senso. E comunque salutiamo tutti voi che ci avete seguito fin qui, che avete interagito con noi. E come dicevamo prima, il weekend sarà costellato da bel tempo. E quindi? E quindi andiamo tutti al mare, divertiamoci, stiamo bene. auguriamo a tutti voi un felice weekend, visto che non ci sentiamo più fino alla prossima settimana, almeno, o forse anche di più per quanto mi riguarda. Mentre per quanto riguarda te, Peppe, mi sa che loro si dovranno abituare all'idea di averti. Io avevo salutato, ho detto allora mi devono sopportare ancora. Ricordati dai, che sei un ragazzo fortunato, ricordatelo. Ok, un saluto grande grande, vi lasciamo con Carta e Penna che arriverà subito fra poco insieme a Filippo Glorioso, e alla prossima, ciao, buona giornata, ciao.